C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento. Ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui, qui per te. Mi trattengo all'orizzonte, vedo un'ombra che si muove, il suo calore mi circonda, resto appeso al mio dolore. Cerco scuse appiccicate passeggiando per le strade di un eterno cambiamento che mi lega e mi tormento. Mi tormento perché piango, mi tormento qui a vedermi, mi tormentano le colpe di un passato ancora in piedi, mi tormenta la tua voce che sussurra soluzioni e sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui, qui per...